versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Si vede alle 16:31 e 7 secondi agli studi della radio di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia e vi auguro a tutti un buon 14 luglio. E insomma, è sempre una data importante nella storia dell'Occidente, la presa della Bastiglia. E anche da oggi la data dell'accordo sul nucleare nel gruppo 5+1, quindi Stati Uniti, paesi occidentali con l'Iran. Non ce ne occupiamo oggi, io mi limito a pregare, per così dire, che davvero le verifiche predisposte ai siti atomici iraniani, soprattutto quelli militari sotterranei, siano un regime di controlli vero e non scritto sulla carta, perché francamente la tesi iraniana per cui c'è bisogno del nucleare per produrre energia quando hanno tre volte le riserve in gas degli Stati Uniti, e basta che andate a vedere sul sito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia per vedere che il costo di produzione al megawattore tra il gas e il nucleare qual è quello che costa meno, ovviamente il gas. Quindi il nucleare serve non per convenienza economica all'Iran, serve da sempre come strumento di status di potenza regionale del regime, e il regime iraniano per anni e anni ha sfidato l'Occidente, come sapete, con esponendosi a una pluralità di sanzioni, aspettando l'amministrazione americana giusta, quella per così dire che fosse o piegata sotto il peso degli errori o comunque defilata rispetto a un ruolo più attivo nei confronti della tutela nelle aree internazionali, e quindi portano a casa questo accordo. Io mi auguro, viva la dissensione ovviamente, mi auguro solo che il regime delle ispezioni sia davvero serio. Per fare una battuta, mi sentirei più sicuro se quel tavolo negoziale fosse stato seduto Schäuble, visto come si è comportato da mastino al tavolo europeo. Comunque, oggi invece parliamo in trasmissione, come ogni tanto secondo me è sacrosanto che l'informazione faccia, di un errore giudiziario, clamoroso. Di quelli che si riferiscono a persone che vengono arrestati per infamia, per reati infamanti, la corruzione, aver preso denaro per venir meno alla propria missione pubblica, e si fanno mesi di detenzione e a quel punto vengono, come ovvio, distrutti nell'immagine pubblica. E poi si scopre, dopo tantissime istanze di revoca degli arresti rifiutate dal giudice, quando l'inchiesta viene trasferita di sede e passa da una procura, un GIP, a un altro, ecco che a quel punto nuovi magistrati prendono in mano i faldoni delle carte a disposizione dei magistrati e del GIP precedenti che avevano disposto gli arresti. A disposizione, non nuove prove, nuovi accertamenti, no, c'era tutto nei faldoni da anni, e scoprono che naturalmente era tutto già tracciato dalle indagini a disposizione dei PM, e che la somma per la quale la persona è stata detenuta con l'accusa infamante di corruzione, in realtà il PM avrebbe già dovuto sapere da anni quello che ha chiesto l'arresto, e il GIP stesso, che ha esaminato le stesse carte date dal PM per disporre l'arresto, avrebbero già dovuto sapere, con atti a disposizione nelle indagini di polizia giudiziaria di anni prima, che in realtà nelle carte c'era scritto, evidentemente provato evidentemente dalla Guardia di Finanza, che i soldi erano dati ad altri e non alla persona di cui era stato disposto l'arresto e alla quale era stata negata la possibilità che quell'arresto fosse interrotto. Allora, parliamo di questa vicenda perché si è fatto vivo direttamente con noi colui che è passato attraverso questa forca caudina del sistema mediatico giudiziario, e mi ha detto: a me è capitato questo, questo e questo, va scritto una lettera, ovviamente abbiamo verificato, è tutto come dice, se ne sono anche occupati tra l'altro Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, lo stesso Sole 24 Ore. Però cosa diversa secondo me è, in questi casi, consentire anche il racconto diretto dalla persona interessata, ma anche così tutti quanti riflettiamo, perché siccome siamo tutti abbastanza portati al sistema della dannazione immediata non appena il circo mediatico giudiziario ci dà in pasto le notizie, un'Italia che è piena di corruzione, strapiena, che è piena di pubblica amministrazione che collude con imprese private che pagano e strapagano per sgambettare le imprese private che rispettano invece le regole, che è piena di dirigenti pubblici all'occhio e all'orecchio di partiti, amministratori, parlamentari. Cioè, le vicende dell'Italia sono chiare. Però naturalmente nella macchina infernale poi dei meccanismi giudiziari ci finisce anche chi non c'entra niente, ed incredibilmente a quel punto secondo me noi commettiamo tutti un enorme errore, e parlo dell'informazione, non parlo di voi in ascolto che siete incolpevoli, perché l'informazione, come sapete, sbatte in prima pagina gli arresti, poi quando si scopre che ci sono degli errori giudiziari, oltretutto di questa portata, che dovrebbero portare a un'azione nei confronti dei PM e DG, perché ripeto avevano già tutto nelle carte, e che infatti si difendono dicendo che no, ma evidentemente non ce l'avevano fotocopiata questi fascicoli qua, vedremo. Però quando avviene questo, secondo me bisogna restituire la stessa attenzione a coloro che hanno avuto la vita spezzata, perché raccontino e perché tutti quanti noi riflettiamo, perché la giustizia e la legalità sono un conto e la demagogia imperante per cui si è colpevoli appena si finisce sui giornali è naturalmente tutt'altro paio di maniche. Allora, per raccontarci tutta la storia, che è una storia che ha a che fare con delle bonifiche di un'area industriale dismessa, è una storia che ha a che fare con un'enorme multa europea che l'Italia ha rischiato per 670 milioni di euro, e poi con i lavori di esecuzione straordinari, quindi con un commissario ad acta per questa bonifica, è appunto colui che è stato esattamente indicato dallo Stato per essere il commissario che si doveva occupare di quella bonifica in un'area industriale dismessa, per evitare a noi tutti i contribuenti di pagare 670 milioni di multa all'Unione Europea, e si chiama Luigi Pelaggi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Io la ringrazio di aver accolto la mia istanza, lei è stato chiarissimo, ha rappresentato in poche battute ciò che è accaduto alla mia persona. Io ero capo della segreteria tecnica all'epoca del ministro dell'ambiente, sto parlando nel periodo del 2010. Chi era il ministro? Il ministro era il ministro Prestigiacomo. Sì. E fui a quel punto nominato dalla Presidenza del Consiglio come commissario ad acta, commissario straordinario per la rimozione dei rifiuti di questo stabilimento della Sisas. Stiamo parlando nel territorio di Pioltello Rodano, circa 20-25 chilometri dal centro di Milano. Di Milano, sì, Pioltello. Pioltello era un vecchio stabilimento che produceva acetilene, che era purtroppo fallito, e questa industria sotterrava i rifiuti speciali che pericolosi e non pericolosi che produceva dalla propria attività. E dopo il fallimento c'era stato un accordo negli anni precedenti, nel 2006, con il precedente ministro e con dei privati per l'acquisto dell'area, che poi acquistarono per la bonifica, però non rispettarono la rimozione, e intanto la Commissione europea ne era stata investita nel lontano 2004 da parte dei cittadini, aveva determinato una prima condanna dello Stato italiano, una seconda condanna per circa 670 milioni di euro. Per farla breve, nella fine dell'aprile 2010 io fui nominato, per cui nominai subito coloro i quali la stessa ordinanza mi dava la possibilità di nominare due esperti, due professori universitari, due magistrati, ebbi subito l'aiuto di tutte le autonomie locali, cioè quindi della regione e della provincia, mi recai subito e poi andai in Commissione europea per chiedere un periodo di moratoria, perché il termine ultimo stabilito all'epoca era il 31 dicembre 2010. La Commissione europea ascoltò con molta veemenza, io sottolineai che si trattava di oltre 300.000 tonnellate, che purtroppo la situazione eravamo arrivati, insomma, che mancavano circa 6 mesi, e che non era colpa mia, ma purtroppo era la situazione, le difficoltà incontrate per questo smaltimento. La Commissione era molto perplessa, perché erano trascorsi, insomma, ormai più di 10 anni, quindi non credeva più alle parole, ed io promisi dei fatti. E dopo accadde che i privati che avevano acquistato questo stabilimento, che erano grossi, una società retta da questo signor Grossi, insomma, ha voluto restituire l'area, per cui non era interessata più a fare lo smaltimento. A quel punto io bandii subito una gara ad evidenza pubblica al massimo ribasso, che fu aggiudicata a settembre. Dopodiché, rispetto al periodo di moratoria che avevo chiesto di ulteriori 3 mesi, ad ottobre la Commissione europea comunicò che ci dava soltanto 1 mese per la rimozione e lo smaltimento. Un mese per 300.000 tonnellate? C'è un mese in più rispetto, ecco, al 31 dicembre 2010. Noi ci siamo riusciti, nel senso che entro il 31 gennaio, ed è stato certificato da tutti gli enti, incluso dall'ARPA Lombardia, che tutti i rifiuti erano stati rimossi, in parte trasportati in impianti finali, che ovviamente questo ovviamente era a carico da parte, diciamo, della stazione che aveva vinto la gara di appalto, e in parte invece erano stati rimessi nella massima sicurezza nel sito, e poi furono trasportati, tant'è vero che il 28 di marzo per la prima volta nella storia, diciamo, venne il ministro dell'ambiente insieme con il ministro Prestigiacomo, il presidente Formigoni, con il prefetto, commissario europeo, il primo nome che ha fatto, sì, che era il polacco, sì, il commissario europeo. Con il commissario europeo vennero a verificare che al 28 marzo tutti i rifiuti erano stati rimossi, tant'è vero che poi nel settembre del 2011 per la prima volta fu archiviata interamente la procedura di infrazione, per cui lo Stato italiano non era più destinatario della sanzione di 670 milioni. E quindi lei, come commissario, in tempi rapidissimi, malgrado che i privati subentrati nell'area si fossero dichiarati non più interessati, bandisce la gara, rispetta i tempi strettissimi dati dalla commissione, mette in sicurezza migliaia di tonnellate di rifiuti, fa in modo che questa gara venga aggiudicata e vengano svolti i lavori, la commissione verifica e ci risparmia 670 milioni. Fin qui la parte, per così dire, positiva. A quel punto che succede? Succede che da parte della regione fu chiesto a Lombardia di prorogare la mia ordinanza, in quanto, siccome erano stati rimossi, si erano diventate delle cave queste discariche, per cui devono essere riempite di terra, questo perché è anche messi in disuso tutti i pozzi che erano stati realizzati per non inquinare la falda, per cui fu prorogata la mia ordinanza di altri 6 mesi fino ad ottobre del 2011. A giugno, inaspettativamente, insomma, mai nella mia vita, mi fu notificato un avviso di garanzia da parte dell'autorità giudiziaria di Milano in relazione a delle collusioni mie con questa società che aveva vinto l'appalto. A questo punto io continuai la mia attività e da giugno del 2011 fino alla primavera del 2012, quindi anche successivamente dopo che ho cessato il mio incarico, ho presentato ben 5 memorie in cui ho sempre riferito tutta la mia attività e ho sempre chiesto all'autorità inquirente di poter essere ascoltato per poter spiegare qualsiasi domanda, insomma, poter rispondere a qualsiasi domanda. Perché l'accusa della Procura di Milano era di corruzione, cioè di avere pilotato la gara perché la vincesse questa società che si era occupata della rimozione e della messa in sicurezza dei rifiuti. Mi perdoni, l'avviso di garanzia si parlava più di interessi particolari, di rapporti che avevo, quindi non c'era nemmeno il reato di corruzione. Bene, l'ultima memoria l'ho presentata ad aprile 2012 da parte dei miei avvocati e chiesi di essere sentito, ma per ben 5 volte non è stata la mia istanza accolta. Dopodiché passa il 2012, passa il 2013, il 22 gennaio 2014 vengo privato della mia libertà. Lei nel frattempo ovviamente aveva compiuto la sua azione di commissario, quindi non era più commissario. Non ero più commissario perché l'avevo conclusa ad ottobre del 2011, portando anche il riempimento delle discariche, poi era stato nominato un commissario per la gestione ordinaria. Per cui io poi ho continuato la mia attività, anzi anche nel governo successivo sono rimasto come consulente giuridico del ministro per circa 1 anno. E successivamente, come le dicevo, passa il 2012-2013, a gennaio del 2014, il 22 gennaio, vengo privato della libertà e nell'atto, nel momento in cui mi privano la mia libertà personale, la prima volta nella mia vita che un provvedimento nei miei confronti, nell'ordinanza di custodia cautelare vedo che era stata sottoscritta il 19 di dicembre, quindi più di un mese prima aspetti rispetto a un CIP o un giudice che, a cui la richiesta era stata chiesta un anno prima, quindi a gennaio del 2013 dai pubblici ministeri, quindi per un anno, e io non sono stato mai sentito, mai ascoltato in nulla, e il CIP che ha firmato quel provvedimento poi non ha cambiato funzioni, per cui il mio GIP, il giudice istruttore successivo, dopo la mia privazione della mia libertà personale, era un altro rispetto a quello che aveva firmato l'ordine. A quel punto è iniziata, per così dire, dopo il mio interrogatorio, dove io mi sono difeso in rogatoria qui a Roma, perché sono stato arrestato a Roma, e dopo ho protestato, ho dichiarato la mia completa innocenza. Dopodiché è iniziata una battaglia giudiziaria, le dico soltanto dei numeri, ci sono stati 12 provvedimenti. Aspetti, l'accusa era quella che lei fosse stato corrotto avendo percepito una tangente di 700.000 euro. 700 milioni, questo è il reato più grave, e poi tutta una serie di reati in materia ambientale. A questo punto io mi sono difeso nel primo interrogatorio, dopodiché è iniziata con i miei avvocati, con l'avvocato Spiarelli di Roma, l'avvocato Bane di Roma e l'avvocato Galluccio di Roma, ho iniziato una battaglia giudiziaria che ha determinato ben 12 provvedimenti più gli ultimi due che lei ha evocato, quindi 14 provvedimenti. Per ben 6 volte mi è stata rigettata la libertà, gli arresti domiciliari, mi è stato sempre rigettato perché ero la persona più pericolosa. Sono stato rimesso, ho vinto il ricorso in Cassazione il 22 di gennaio, per cui ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione che era la competenza non era di Milano ma di Roma. Appena ho avuto la mia libertà personale, già avevo la documentazione, si parla di 32.000 pagine, per lo più circa il 40% ripetitive, quindi difficilissima comprensione. A giugno sono riuscito a individuare, il 21 giugno ancora lo ricordo, questo faldone di 825 pagine dove vi era una parte di inchiesta non svolta dai NOE, ma svolta dalla Guardia di Finanza, dove NOE sono i nuclei operativi ambientali, ma svolta sempre con funzione di polizia giudiziaria dalla Guardia di Finanza. Guardia di Finanza, in cui, in base ad un'intercettazione telefonica avvenuta tra un soggetto che curava il factoring per una grande impresa bancaria e questa società, si parlava proprio di questi denari, di una somma. Dopodiché intravedo in questo tutta una serie di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in cui attraverso una banca dati che erano state autorizzate dagli stessi PM io riesco a ricostruire, qui è veramente balordo, cioè sono io che l'onere della prova è ricaricato su di me per dimostrare la tracciabilità di queste somme, riesco a dimostrare circa i 50 passaggi di denaro che ci sono stati tra questi soggetti che io nemmeno conosco e tra queste società. Ma il punto è che ci è riuscito perché ha riflettuto insieme ai suoi avvocati sulle carte delle indagini che erano state svolte dalla Guardia di Finanza e che erano a disposizione dei PM, altrimenti non avrebbe potuto farlo. Quel fandone era una parte integrante degli atti delle indagini su cui il PM ha chiesto e ottenuto dal GIP la sua custodia cautelare. Qua ci fermiamo e tra un minuto torniamo dopo le informazioni stradali. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.50. Stiamo parlando di un caso patente di denegata giustizia. Questo non è un errore della giustizia, è proprio denegata giustizia. E con noi un ex funzionario del Ministero dell'Ambiente, Luigi Pelaggi, applicato come commissario straordinario alla bonifica per evitare un'enorme infrazione europea con 670 milioni di multe erogate all'Italia da parte della Commissione su una grande area industriale poco fuori Milano a Pioltello, la svolge in tempi record con la rimozione di oltre 280.000 tonnellate di rifiuti più o meno pericolosi sotterrati nell'area e messi in sicurezza, compie il suo incarico e nel 2011 sa di essere indagato, passano anni, le sue richieste di essere sentito dai magistrati rimbalzano, fino a che nel gennaio 2014 viene arrestato con l'accusa di corruzione, aver preso 700.000 euro per pilotare la gara, in parole povere. Mesi e mesi di stanze per avere la libertà negate, si arriverà poi al punto in cui la Cassazione dice no, la competenza non è di Milano ma di Roma. A quel punto lui, accanendosi con i suoi avvocati, nelle carte stesse delle 32.000 pagine dell'indagine, beccano un faldone di 800 pagine nel quale la Guardia di Finanza anni prima ha ricostruito con intercettazioni la tracciabilità esattamente dei 700.000 euro sulla base della, delle quali, avendo percepito i quali, secondo il PM e il GIP, lui doveva essere carcerato e indagato e processato per corruzione. Peccato che lì nell'indagine ci siano le carte che ricostruiscono a chi sono andati e non a lui, questo è il punto. E ovviamente di questo prendono atto, finalmente, tardivamente, dopo la custodia cautelare, i pubblici ministeri di Roma. Ecco, dopo aver passato tutto questo, caro Luigi Pelaggi, come ci si sente? Ma senta, da un lato mortificati perché sono cose indescrivibili che non dovrebbero accadere a nessuno. Dall'altro fortificati, nel senso che io credo profondamente nella giustizia, come non è stato detto, il procedimento adesso per la parte ambientale continuerà, ma io sono tranquillissimo. Siamo da 4 generazioni avvocati, quindi a menadito sono sicuro e tranquillo che tutto ciò che è stato posto in essere in perfetta legittimità e in conformità e nell'interesse dello Stato. Perché qui l'unico però facciamo capire a chi ascolta, l'accusa di corruzione è stata archiviata, perché lo stesso pubblico ministero di Roma dice qua c'è la prova nelle carte che i soldi li ha presi un altro, quindi... Certo, poi che cosa accade? Che sulla base di quella corruzione lo ritenevano anche che, essendo io un corrotto, avessi aiutato l'azienda cioè per porre in essere dei reati ambientali. Ma io ero commissario nell'interesse dello Stato, l'obiettivo era quello della rimozione della messa in sicurezza di tutti i rifiuti. Però io posso chiedere una cosa, lei e i suoi avvocati, di fronte agli strumenti che pone l'ordinamento nei confronti del cittadino, questo è un caso di denegata giustizia, ripeto, stava nelle carte dell'indagine. La prova opposta alla tesi del PM per inoltrare la sua istanza al GIP e opposta al GIP che conferma l'ordinanza di custodia cautelare nel suo caso. Ecco, voi come vi comporterete nei confronti di quei PM e di quel GIP che adesso dicono ma evidentemente non avevamo le fotocopie giuste? Allora, io le dico che innanzitutto per ciò che concerne diciamo i metodi di detenzione, io ho già iniziato il procedimento contro lo Stato italiano presso il Tribunale Civile di Roma. Per quanto riguarda invece questa vicenda, appena si concluderà il procedimento, il troncone adesso, ambientale, il troncone ambientale, ovviamente è giusto e così sia che, come io sono stato giudicato, vengono anche queste persone giudicate dalla stessa giustizia, perché questo, cioè, perché questo non deve capitare in questo Stato, per chi conosce il diritto non sono cose spregevoli, ma non soltanto quello di essere privato della libertà personale, ma le modalità con cui viene essere privato, e poi per persone che incensurate, anche non avere nemmeno la possibilità di avere, anche se quello è anche una mortificazione, agli arresti domiciliari, questa la dice lunga sul fatto che per ben 5 mesi sono stato ovviamente privato della mia libertà personale, dei miei affetti, della mia professione e tutto ciò che mi circonda. Allora, cari ascoltatori, non solo secondo me era giusto nei confronti dell'ex funzionario dello Stato dargli questa possibilità, ma il problema è riflettere se sia possibile che un PM e un GIP dicano beh, non c'ho le fotocopie, quando dicono tu sei un corrotto, ti carcero e c'è la prova opposta esattamente negli atti a loro disposizione da anni, ripeto, da anni. Allora, mi limito a farvi riflettere su questo. Leggete sulla prima della stampa di oggi un pezzo di Gramellini è un collega molto buonista, va da Fazio eccetera eccetera, a proposito della giustizia italiana, ha scoperto che nei confronti degli immigrati che vengono in Italia e a cui è rifiutato il permesso di asilo, la giustizia civile ci mette 4 anni per esaminare il ricorso e loro nel frattempo spariscono. Ecco, stiamo parlando di una giustizia che funziona così, non solo così, non sempre così, ma troppe volte così. Io spero di aver dato una piccola soddisfazione a Luigi Pelaggi e io aver fatto riflettere tutti voi sul fatto che se vedete una cosa su un giornale, beh, non automaticamente, sempre sono colpevoli veri. Riflettiamoci, appuntamento a domani, continuate con Radio 24.